9 in punto, la versione di Oscar. Oh, cari ascoltatori, buon venerdì 13 di gennaio e un auguro a tutti coloro che si chiamano Ilario, visto che oggi è Sant'Ilario. Sì, devo dire che ieri è uno dei primi giorni in cui mi pongo il problema, mi sono posto il problema se anche oggi cominciare con i Doors, perché effettivamente assistiamo a segni per la prima volta non timidi di apprezzamento da parte del mercato, del complesso di decisioni e di rassicurazioni che vengono dagli euro leader. I risultati iniziano a vedersi con l'abbassamento della curva dei rendimenti che si è registrato ieri nelle aste italiane dei titoli a breve, un dimezzamento praticamente per quelli a breve, per i bot, rispetto alle aste dei mesi di novembre e di dicembre, e un abbassamento sotto soglia quota 500 che continua anche stamattina dei rendimenti a lungo periodo. Però per prudenza noi abbiamo bisogno di qualche giorno, se non qualche settimana, di conferma di questa tendenza e soprattutto del fatto che si abbassi ancora, quindi a scopo cautelare, ma per la prima volta con un primo barlume di segno non solo pessimista ma un po' positivo, abbiamo cominciato comunque coi Doors. L'argomento della puntata di oggi, l'ho preannunciato nel lancio, lo confermo, è la decisione assunta ieri dalla Corte Costituzionale, il no ai due quesiti referendari. Io premetto il mio micro conflitto di interesse, mi scuso se ogni tanto l'influenza oggi si sentirà nel naso nel mio tono di voce, ma ero uno del 1.200.000 rotti italiani che avevano firmato i quesiti, quindi dichiaro, sia pure ex post, il mio punto di vista. Tenteremo di capire il come e il perché con i nostri ospiti. Ora, per un paio di minuti, dalla rassegna stampa, consueta abitudine, quella internazionale sui temi dell'euroarea, sui giornali quotidiani tedeschi, dal Financial Times Deutschland alla Frankfurter Allgemeine, vasto spazio alla conferenza stampa, la prima da inizio anno, del presidente della BCE, Mario Draghi, con ampio sottolineatura da parte dei giornali più euroortodossi alla sua indisponibilità dichiarata a valutare un quantitative easing, cioè interventi di acquisto per classi di asset analoghi a quelli seguiti dalla BCE. Il Financial Times Deutschland, in un suo approfondimento, c'è una lettera di Jörg Asmussen ai membri del working group dell'Eurogruppo, in cui ci sono delle critiche all'ultima versione sulla stesura del patto fiscale di attuazione dell'accordo dell'8 dicembre, e ci sono dei particolari abbastanza inediti, almeno per me, nel rapporto tra componenti politici seduti a quel tavolo e BCE, scusatemi. Poi ho trovato interessante l'intervista a due vice capogruppi della CDU, Michael Meister e Michael Fuchs, che considerano non solo inevitabile ma affrontabile senza troppi rischi per l'euro l'uscita, uno dice temporanea, uno dice non si sa quanto lunga, della Grecia dalla BCE. Questa è stata Bloomberg a rilanciarla ieri sera. Poi difficoltà crescenti, qui ci sono sia su Katemerini, il giornale greco, che su Wall Street Journal, riportate per la chiusura dell'accordo della partecipazione dei privati al taglio dei capelli, cioè a quanto ci si rimette sui titoli greci, che è il problema numero uno. Ormai siamo arrivati al 70% di valutazione di perdita. Invece Financial Times Deutschland, per la Germania, poiché le cose sono andate straordinariamente bene dal punto di vista fiscale e di crescita nel 2011, sostiene che con un deficit che va meglio del previsto, i conti pubblici tedeschi accantoneranno 25 miliardi di euro, una specie di fondo per le cose che stanno rapidamente volgendo invece al peggio per il 2012, quindi questi 25 miliardi di euro di surplus pubblici pronti per essere utilizzati nel 2012. Le Figaro, per quello che riguarda i conti pubblici francesi, ci dice che il deficit francese può chiudere al 5,5% del PIL nel 2011, invece del 5,7% inizialmente previsto, quindi un po' meglio. Però la Germania taglia le sue previsioni di crescita nel 2012. Handelsblatt dice che verranno portate a non più dei più 0,75%. Abbiamo visto ieri come l'ultimo trimestre del 2011, anno che complessivamente si chiude con un più 3% del PIL tedesco, ma l'ultimo trimestre ha il segno meno, e quindi Handelsblatt dice che le autorità tedesche valuteranno in non oltre tre quarti di punto la crescita invece nel 2012. Sul Frankfurter Allgemeine c'è un interessante approfondimento su quanto lavorano gli europei, dal che si dedurrebbe che i tedeschi lavorano 1904 ore l'anno in media. Pensate, i francesi, secondo questo studio della FAZ, rispetto alle 1904 ore dei tedeschi lavorerebbero solo 1679 ore rispetto ai tedeschi, una bella differenza, cioè è come lavorare 6 settimane in meno l'anno. Anche l'Italia lavorerebbe meno della Germania, anche se rispetto a loro 1904 ore noi saremmo a quota non 1679 come i francesi, ma 1790. Dopodiché chi sono i paesi che lavorano ulteriormente di meno? Praticamente i finlandesi lavorerebbero addirittura meno dei francesi, e la notizia invece che a lavorare di più dei tedeschi, secondo lo studio della Frankfurter Allgemeine, sarebbero i greci, polacchi, i greci, non ve lo aspettavate, i greci, i polacchi, gli ungheresi e i romeni. In Francia cresce il sostegno nei sondaggi al fronte nazionale di Marine Le Pen, la figlia di Jean-Marie Le Pen, perché vedo che su Le Monde ieri la stima elettorale, si avvicina alle presidenziali, è passata dal 22%, che era dove l'avevo lasciati un paio di settimane fa, al 31%, quindi la rincorsa dell'elettorato di Marine Le Pen rispetto a quello dell'UMP, cioè del partito di Sarkozy, mi pare che faccia dei bei passi avanti. Ecco, chiusura delle notizie che più mi hanno colpito dalla stampa europea e che magari non trovate su quella italiana. Torniamo invece alla decisione variamente commentata oggi. Molti quotidiani hanno scelto la bocciatura da parte della consulta dei referendum come apertura, altri sono invece andati sull'altra notizia politica di ieri, cioè il voto della Camera su Cosentino. I titoli della stampa, il titolo della stampa è: la consulta boccia il referendum, inammissibili, va cambiata la legge, il rivedere la legge elettorale e la scelta del Messaggero. A me era piaciuta invece il titolo del Fatto Quotidiano, 1.210.466 firme buttate nel cestino, niente referendum, con il Porcellum resta il Parlamento dei nominati. Dopodiché la polemica è stata quella più viva, è stata quella animata dall'onorevole Di Pietro, dell'Italia dei Valori. Un piacere al colle è stata la frase pronunciata dal leader dell'Italia dei Valori, e sapete, o se non lo sapete ve lo ricordo, che il Quirinale ha emesso una nota aspra in cui sia pur senza citare l'onorevole Di Pietro, ha commentato: è solo una volgarità avanzare l'ipotesi che il no della Corte, i due no della Corte, possano essere stati pronunciati per altre ragioni che non la libera e indipendente valutazione da parte della Corte dell'ammissibilità o meno dei due quesiti. Però è inevitabile, e lo traggo in questo caso dal Foglio di Giuliano Ferrara, l'idea che, insomma, non dico il piacere, però, come l'ha detto esplicitamente Di Pietro, però le conseguenze politiche sono quelle inevitabili di questo doppio no, anche se sicuramente non sarà stata quella la preoccupazione della Corte, di fare un tra virgolette piacere, per così dire, cioè di consolidare la prospettiva del governo tecnico Monti, per questo quindi la battuta di Pietro, e a esultare, diciamo così, sono stati partiti come il PDL da una parte, e naturalmente a esprimere contrarietà sono stati coloro che più si erano impegnati nella raccolta delle firme. Quindi il PD, che pure aveva consentito nel corso dell'estate di arrivare con un grande scatto di reni al successo di una raccolta di firme così elevata, l'Italia dei Valori, diciamo così, i centristi, che sono per una soluzione di una legge neoproporzionale, ritengono invece variamente, trasversalmente, che il segnale che viene dalla Corte, quello di dover scrivere comunque una legge elettorale nuova, possa portare meglio acqua al mulino di una legge neoproporzionale di quanto avvenisse per gli effetti abrogativi di uno dei due quesiti, che erano quelli naturalmente del ritorno al Mattarello. Ecco, questa è la sintesi. Rispetto a questa sintesi sentiamo però quale può essere il commento di colui che più di tutti, o comunque in prima fila tra non molti insieme a lui, è stato uno dei più ferrei, convinti sostenitori e animatori dell'iniziativa referendaria, dell'idea che c'è dietro l'iniziativa referendaria, che è coerente alle iniziative referendarie in cui dall'inizio degli anni 90, grazie all'impegno dei referendari e grazie all'impegno degli italiani, alle scelte degli italiani, si è passati da un sistema proporzionale, prima intaccando il meccanismo delle preferenze, poi a un sistema di bipolarismo, sia pure zoppicante, sia pure fatto attraverso tentativi più o meno riusciti e approssimativi. E sto parlando quindi di Arturo Parisi, deputato del PD e membro del comitato referendario, che è stamattina con noi. Buongiorno e grazie, Parisi. Buongiorno a voi. Allora, una prima valutazione, innanzitutto, Parisi, lei si aspettava questi no? Io devo dire, io confidavo, ho sperato invece che su uno dei due quesiti, forse su quello parziale invece che su quello totale, ci potesse essere un sì. Mi sono illuso. Lei che pensava invece? No, guardi, io, come dire, la sera con l'allungarsi della Camera del Consiglio ho aperto il mio animo alla speranza, ma purtroppo avevo una solida attesa che avevo lasciato scritto anche sui giornali circa l'esito. Chi si ripassasse i giornali dei giorni precedenti, dal 5 al 10, troverebbe già prescritto l'esito a quale abbiamo assistito ieri. E poco male, ma anche, oltre che annunciato e raccontato, anche spiegato all'indicativo, non col condizionale, è spiegato appunto come necessario per salvaguardare l'equilibrio tra i partiti che si erano ritrovati miracolosamente uniti a sostegno del governo. Con ciò non voglio dire, l'ho detto prima e lo ripeto oggi, che i giudici si siano fatti guidare, condizionare, da questa necessità. Tuttavia è fuori di dubbio che è stato lasciato correre troppo e da troppi e in modo assolutamente convergente questa spiegazione, e da qui deriva la nitida contrapposizione tra quelli che oggi si sentono doloranti e addolorati e quelli che viceversa, che lo facciano vedere o non lo facciano vedere, considerano questa come un giorno di festa. Che dovrebbe però, prendendo alla lettera questo ragionamento, che purtroppo, ahimè, convince pure me il giorno dopo, ma speravo fino a ieri sera invece che proprio il giorno in più fosse necessario la Corte per articolare qualche considerazione di parziale accoglimento. Ma detto questo, se prendiamo fino in fondo e alla lettera le argomentazioni che ci ha appena esposto Parisi, vorrebbe dire che anche nel PD c'è un atteggiamento, diciamo, nella parte prevalente del PD, di soddisfazione, sia pure macelata, secondo lei? Ma mi sembra difficile negarlo. Peraltro la storia del referendum, la vicenda dell'iniziativa referendaria è agli atti. Il partito aveva sin dall'inizio, come dire, espresso una contrarietà all'accesso, all'utilizzazione dello strumento referendario, con l'argomento che avrebbe presentato una sua propria legge chiedendone la calendarizzazione entro la fine di settembre, cioè l'ultimo giorno utile perché fosse possibile una via alternativa. Successivamente si è, come dire, associato consentendo la raccolta delle firme tra i militanti che invece hanno partecipato in modo, come dire, appassionato. Infatti, ha ragione lei, cioè bisogna distinguere tra una parte, diciamo, della dirigenza storica e la parte del popolo del PD, per così dire. Beh, purtroppo purtroppo la dirigenza storica è lì, ecco, abbiamo la domanda che attende ancora una risposta sul fatto se Bersani abbia firmato oppure no. Questa è la realtà. Se il PD avesse guidato e partecipato nel suo vertice questa iniziativa, questa domanda avrebbe avuto già una risposta. Questa risposta non l'ha avuta, o per meglio dire, il silenzio della risposta è molto più eloquente di qualsiasi risposta. Allora, io non sono molto d'accordo con chi, come per esempio ancora oggi sulla prima pagina l'editoriale del Corriere della Sera di Michele Ainis, dice che l'ammissibilità di questo referendum era, per così dire, rime obbligate, cioè insomma in realtà è stata un'opera inutile. Io resto dell'idea che i termini per l'ammissibilità ci potessero essere. Detto questo, quello che non capisco, per interrompo, vorrei ricordare che il suo parere, il nostro parere, visto che ci sentiamo accomunati in questa valutazione, è stato condiviso da non persone qualsiasi, appunto, ma in prima battuta da 65 cattedrati di diritto costituzionale e appena negli ultimi giorni da 115 cattedratici delle nostre università, tra le quali in prima fila due ex presidenti come Zagrebelli e Nisa. Quindi di che cosa stiamo parlando? No, appunto, cioè, fa benissimo a rimarcarlo. Detto questo, quello che poi non capisco, e mi chiedo a lei un aiuto, è chi sostiene questa tesi, come Ainis stamattina, e poi dice e adesso partiti cambiatela in fretta. Perché io la conseguenzialità per la quale, considerato come ci sta aiutando a fare Parisi, che in realtà i partiti più brindano, che sono in realtà indotti a un'iniziativa dai no della Corte, non riesco a capire la conseguenzialità per la quale, sbarazzato il campo dal referendum e da una scelta precisa nelle mani del popolo sovrano, i partiti dovrebbero trovare poi la convergenza. Mi aiuti a capire in base a quale alchimia? Leggiamoci qui una dichiarazione di Cicchitto che dice: ora che non dobbiamo più misurare i giorni per fare la legge, si può impostare un discorso che restituisca alle forze politiche il loro ruolo. Lei capisce che con un incipit di questo genere siamo rovinati. Lei, ricordo a chi ci ascolta che i partiti sono stati fermi per 6 anni concretamente e sono negli ultimi giorni di settembre, man mano che il torrente di firme si trasformava in fiume, hanno cominciato a dire cambiamo da stasera. Come ha visto, sono passati 4 mesi più o meno da allora e non è successo nulla. E oggi, all'indomani della sentenza, si dice finalmente possiamo prenderci la calma, quando ormai il conto alla rovescia delle prossime elezioni è già iniziato, perché noi, come succede all'inizio di un anno, continuiamo a scrivere 2011, ma vorrei segnalare che siamo nel 2012 certo. E per le prossime elezioni una legge deve essere approvata entro novembre. Novembre è proprio fuori tempo massimo in qualche modo, ma lei se l'immagina se la prendono pure calma? E per di più aggiungono, perché la dichiarazione continuava, non possiamo mica affrontare il tema della legge elettorale, dobbiamo prima affrontare i problemi delle riforme costituzionali. Priorità. Ma giustamente, perché dicono che facciamo la legge elettorale? Prima bisogna decidere se il Parlamento è fatto di due camere, come tutti riteniamo che debba essere superato, o finalmente d'amore d'accordo arriviamo a una camera sola. Secondo, dobbiamo decidere se i parlamentari devono essere questi 945 infiniti che ci costano tutti questi soldi, o invece debbano essere ridotti a 400. Ma lei se l'immagina i partiti che adesso in 3 mesi, con riforme costituzionali, prima di passare alla legge elettorale, riducono le due camere ad una e i parlamentari da 945 a 400? Lei se l'immagina? Sì. Ma è questo il problema. Il problema sono tutte queste balle che stanno raccontando e moltiplicando, che hanno aumentato la sfiducia dei cittadini. Che tacciano, è solo il silenzio quello che chiediamo, che può salvare la dignità. Senta, ma in realtà come referendari che possiamo inventarci adesso per evitare di andare, guardi, a un ennesimo voto con questa legge elettorale? Ma qui purtroppo, guardi, ieri, come dire, mi sono trattenuto col dovere guidato dal dovere di misurare le parole, ma oggi più me la penso e più effettivamente mi sento scorato, perché tra i tanti danni che abbiamo lasciato alle nostre spalle c'è anche la sfiducia crescente nelle istituzioni e delle pochi strumenti che la Costituzione ci mette nelle mani dei cittadini per correggere, per riequilibrare, no, le prepotenze della classe politica e dei capi partito, quale il referendum. Onestamente, chi è che ci va a riproporre un referendum? Noi il referendum l'abbiamo, come dire, proposto guidati dalla disperazione. Stava arrivando il 30 settembre, l'ultima data entro la quale si poteva proporre, e io ho detto non è sicuro che la Corte, perciò rispetto comunque il giudizio della Corte, debba condividere la nostra posizione, ma qui l'edificio brucia. Quando gli edifici bruciano ci si butta, anche se le probabilità di successo sono il 30%. E noi ci siamo buttati in 1.300.000, ci siamo fatti male, siamo doloranti, ma l'edificio sta bruciando. Io vorrei che questo fosse chiaro a tutti, sta bruciando. E io vorrei che fosse anche chiaro a tutti che in un'epoca in cui, insomma, come ovvio è sotto i nostri occhi, la sfiducia di cui godeva anche lo stesso istituto referendario, la corsa dei cittadini, al di là del modesto impegno degli apparati di alcuni partiti, ma di quelli grandi, i prevalenti, o erano contrarissimi o era una vis grata poedle, come abbiamo ricordato per il PD, perché io condivido il giudizio del tuo Parisi in questo, invece la corsa dei cittadini in quei pochi mesi a fare 1.200.000 firme rappresentava, secondo me, proprio anche la reazione dei cittadini a questa consapevolezza che c'è fuoco che avanza nell'edificio politico istituzionale del paese, e quel fuoco è molto minaccioso. Andiamo in pubblicità, perché ci ha raggiunto poi dopo anche l'onorevole Renzo Lusetti, che è il deputato dell'UDC, responsabile nazionale, perdonate, del dipartimento elettorale del partito. Dichiarazione dell'onorevole Dario Franceschini all'Unità sulla riforma elettorale: serve un accordo politico trasparente in cui stabilire qual è la cornice istituzionale. Dopodiché dice: io sono ottimista, si farà, perché altrimenti la gente ci correrebbe dietro, e ha ragione. Dopodiché disegna uno scenario, Dario Franceschini, Unità, nel quale lui è ottimista su un accordo molto ampio che vada dal PD al PDL, all'Italia dei Valori, da Lega e anche il SEL. Io francamente non riesco a capire su cosa si basino queste dichiarazioni, sarà che evidentemente non mi sfugge qualche cosa, perché l'ottimismo di una convergenza di tutte queste forze politiche che sono depositarie di visioni radicalmente diverse, innanzitutto su cosa tenere del maggioritario o meno, visto che ci sono partiti citati sia da una parte che dall'altra delle due ex coalizioni che mirano ad andare a mani libere di fronte agli elettori e quindi vogliono un neoproporzionale, ecco su cosa si basi questo ottimismo a me sfugge, mentre invece mi appareva limpido lineare intanto tornare al Mattarellum. Eccoci tornati in studio per questa seconda parte della versione di oggi, dedicata ai no pronunciati ieri dalla Corte Costituzionale sui quesiti referendari per la legge elettorale. Oltre 1.200.000 firme erano state raccolte. Arturo Parisi ci ha spiegato lo scoramento, che io, devo dire la verità, in larghissima misura condivido. Prima di tornare alla seconda parte, annuncio tecnico, anzi un annuncio al cuore dei nostri ascoltatori: per favore votate, votate, votate. Qui non è un partito, ma vi chiedo di votare, perché c'è una consultazione in corso, c'è un sondaggio, ed è un sondaggio per il personaggio dell'anno dell'enogastronomia. Siccome qui siamo tutti tifosi, il nostro amico Davide Paolini, che conoscete, il gastronauta per gli ascoltatori della Radio 24, io non faccio il corretto istituzionalmente, tutti voi che siete in ascolto votate per Davide Paolini, personaggio dell'anno dell'enogastronomia. Come si fa a votare per il nostro fantastico gastronauta che ci dà un po' di delizia del palato, ci consola in questa crisi dell'euro e in questi no della Corte Costituzionale ai referendum, che tanto almeno a me piacevano e mi facevano sperare in un'Italia a breve un po' meno indigesta come meccanismo di scelta della rappresentanza politica? Il sito su cui votare è www.italiatavola.net, e dovete andare, c'è un sondaggio 2011 nella sezione opinion leader, www.italiatavola.net. votate Davide Paolini, ve lo ripeterò in questi giorni incessantemente fino alla fine della trasmissione, ci tornerò sopra. Votate Davide Paolini, www.italiatavola.net. Fine della parentesi. Allora, onorevole Lusetti, qual è invece la sua valutazione? Lusetti, l'ho presentato prima, il deputato dell'UDC, responsabile nazionale del dipartimento elettorale del partito. La sua valutazione sui no della Corte, cosa fare adesso? Innanzitutto grazie per aver accolto l'invito a essere qui con noi. Grazie. grazie a voi per avermi invitato e diciamo un saluto a tutti i radioascoltatori. Ma devo dire che io, come è noto, noi non avevamo appoggiato questo referendum, eravamo un pochino scettici, però insomma anche in caso che la Corte avesse in qualche modo ammesso il referendum saremmo comunque stati contenti, perché noi riteniamo che si debba modificare radicalmente questa legge elettorale. Io capisco lo scoramento di Parisi, dell'onorevole Parisi e dei referendari, però insomma, io sono un pochino più ottimista, nel senso che se ci sono le condizioni politiche qualcosa si può ancora fare. Intanto nessuno di noi sottovaluta il 1.200.000 firme, vuol dire che la gente veramente, sono veramente tante le firme. Già l'altra volta, già quando sono arrivate le firme c'eravamo diciamo un po' non spaventati, però ci si è accesa la lampadina. Insomma, aveva un era significativo che ci fosse stata una corsa così rilevante, no? Ah. Assolutamente. Noi eravamo convinti che non ci fosse così tanta gente, quindi è evidente che c'è una pressione molto forte da parte dell'elettorato e della gente. Primo. Secondo, noi riteniamo che dopo che il capo dello Stato in qualche modo ha detto modifichiamo la legge, ha fatto un appello oggi, Napolitano, insomma è un punto di riferimento forte anche per la politica e non solo per la politica, per il Paese. Quindi io penso che noi siamo obbligati a rivedere la legge elettorale nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Qual è il problema? Il problema è trovare un accordo, una sintesi tra le varie leggi, perché se ognuno guarda al proprio tornaconto, diciamo, ripartito, è chiaro che la sintesi non si trova. Allora, modello spagnolo, modello tedesco, oppure il mix tra maggioritario e proporzionale, insomma, non lo so, però bisogna cominciare a trovare una soluzione. Da dove si parte? Ecco, questo è chiaro che non può essere il governo a fare una proposta, ma deve essere, diciamo, un confronto tra i partiti. Insomma, la difficoltà è questa, però ormai tutti dicono che c'è bisogno di una nuova legge elettorale, se no, cioè io penso che uno dei motivi, sono tante le cause, del distacco della gente dalla politica e dalle istituzioni è anche questa legge elettorale che ha prodotto solamente diciamo un parlamentificio fatto di persone che sono arrivate anche per caso, diciamo, nella istituzione più alta che c'è nel nostro paese, quindi cioè, ritengo che sia obbligatorio farlo. Poi è chiaro che capisco che per la posizione sostenuta dal suo partito è una posizione che Casini ha sottoposto più volte con leggi elettorali maggioritarie che lo esponevano a rischi forti di rappresentanza invece al voto degli italiani, quindi da sempre, lo dico da anni, è una posizione che ha conquistato il pieno rispetto, cioè il fatto di dire il bipolarismo così come disegnato da queste leggi elettorali, perché era critico anche su quello precedente, è una posizione molto comprensibile. Ma l'ottimismo sul fatto di mettere mano, quando invece abbiamo i due partiti maggioritari delle due ex coalizioni, che ovviamente vivono dei premi alle coalizioni, perché è lì che radicano il più del proprio ruolo politico in passato, ma anche in futuro. Gli spezzoni di entrambe le ex coalizioni invece minoritarie, che sono molto critici del ruolo che questi meccanismi maggioritari danno esattamente ai due maggiori partiti. E terza componente, voi che da sempre invece criticate l'impostazione del bipolarismo, io dovessi fare la sintesi, io non riesco a capire come può essere la sintesi. Sicuramente è difficile, l'ho detto per primo, fare la sintesi. Capisco che oggi come oggi, forse mi dica solo un sì o un no, perché non è un programma di esegesi politologica, diciamo la posizione del terzo polo al quale dice appartiene, forse oggi è più forte di prima, di quando c'erano i governi di uno delle due coalizioni in carica, perché intorno a un sistema tedesco con più quota proporzionale e preferenze insieme è ovvio che immagino che vi sia più convergenza delle parti oggi divergenti da PD e PDL nel centro-destra e centro-sinistra. Lei condivide almeno questa analisi? La risposta è sì, condivido questa analisi. Allora su questo più dell'iniziativa potrebbe forse toccare a voi, anche se però PD e PDL immagino di mettersi d'accordo loro. Ma noi possiamo anche provare a iniziare un percorso, però visto che già ieri l'PD ha riproposto, diciamo, la sua proposta, quel mix tra maggioritario e proporzionale che in qualche modo dovrebbe dare diciamo la novità, cioè se ricordo bene il 70% di maggioritario, 28% di proporzionale e 2% il famoso diritto di tribuna, no? Sì. Però è un po' troppo zigogolata secondo me. Noi abbiamo bisogno di cose semplici, è vero che non possiamo prendere i modelli dagli altri, lo spagnolo, il tedesco, però insomma, sono anche modelli che in qualche modo funzionano, quindi se noi avessimo come punto di riferimento questo, è chiaro che a me piace il tedesco, però non è un'eresia, insomma, ha funzionato molto bene nel corso di questi decenni in Germania, quindi non so, potrebbe... Naturalmente c'è l'obiezione che in Germania ha funzionato bene, perché però c'era una specie di convenzione costituzionale che escludeva sia i comunisti che, diciamo, gli eredi diretti del regime sconfitto a destra della guerra, mentre da noi è il contrario, da noi ci sono partiti che operano per trasformazione o per orgogliosa rivendicazione ancora delle tradizioni di qua e di là beccano di fior di voti, ma questo è un argomento diverso. Allora, ci ha raggiunto il professor Tommaso Edoardo Frosini, che insegna diritto pubblico comparato all'Università Orsola Benincasa Napoli. In realtà io ricordo che il professor Frosini aveva detto che questa legge elettorale, quella oggi vigente, sì, insomma, ha tanti difetti, ma non è neanche questo mostro che tutti vogliono disegnare. Ricordo bene, professor Frosini? Ricorda molto bene, buongiorno innanzitutto a voi e ai radioascoltatori. Quindi lei, diciamo, non è né particolarmente colpito e sorpreso, né forse troppo amareggiato dei no della Corte di ieri? Direi di no, perché la mia idea del sistema elettorale è un'idea anglosassone. Il sistema elettorale serve a fare una maggioranza e un governo, e questa legge, con qualche difetto che andrebbe corretto, sicuramente, diciamo, finalizza questo proposito di consentire di avere una maggioranza e un governo, e di consentire al cittadino di eleggere la rappresentanza e di indicare chi deve essere la squadra di governo e il suo leader. Io credo che in fondo poi il dibattito si è raccolto intorno sostanzialmente al problema delle liste bloccate, perché nessuno può negare che questa legge, l'attuale legge, è una legge che favorisce e salvaguardia il bipolarismo. A chi piace il bipolarismo? A me personalmente piace. Credo che questa legge sia in grado di conservare questa, diciamo, finalità del bipolarismo. Poi c'è il problema delle liste bloccate, d'accordo, ma qui si può mettere mano, si può immaginare, che ne so, di introdurre le primarie in modo tale che coloro i quali verranno candidati nelle liste bloccate sono il frutto della scelta elettorale sulla base delle primarie. Allora, se noi immaginassimo delle primarie fatte con legge, regolate secondo normativa e non improvvisate a livello di partito, è possibile selezionare da parte del corpo elettorale coloro i quali verranno poi inseriti nella lista bloccata. Faccio un'ulteriore provocazione: le liste bloccate, se sapute ben, diciamo, utilizzare, offrono una grande possibilità, cioè quella di candidare per far eleggere il meglio della società. Però, professor Frosini, adesso non sfidi chi ci ascolta, che mi tira dietro le cose, perché abbiamo assistito a ben altri criteri. Mi pare che non sia stato forse il meglio, ma non voglio dire il peggio, ma diciamo le misure di reggiseno per un partito almeno. Ecco, per un partito. Dico, se i partiti, anziché cedere a scelte personali amicali, avessero saputo e voluto utilizzare le liste bloccate, avrebbero potuto candidare personalità rappresentative della società italiana, i migliori rappresentanti per avere una classe politica di primissimo livello. Professor Frosini, ma ce lo insegna la nostra scuola di scienza politica, che c'è tanto cara Gaetano Mosca, Wilfredo Pareto, eccetera, certo, e Max Weber, che di solito in una macchina politica chi la guida è più difficile che scelga intorno a sé persone dotate di autonomia, indipendenza ed elevato senno e professionalità, ed è più facile che scelga invece dei tirapiedi usi a obbedir tacendo, perché le macchine politiche sono macchine politiche. Questo è vero, anche se oggi abbiamo un governo frutto di personalità e non appunto frutto di scelte. E ci siamo dovuti arrivare per un paese in ginocchio e che diventava la bomba del mondo, però. E credo però che ci stiamo arrivando anche a forza di criticare questo meccanismo di selezione della classe politica che avviene su scelte imposte dall'alto. Allora, la devo fermare perché abbiamo il minuto di informazione sulla circolazione stradale. Mentre riparte The End dei Doors, riprendo anche l'appello: votate il nostro amico Davide Paolini, personaggio all'anno dell'enogastronomia. Trovate sul sito www.italiatavola, tutto attaccato, italiatavola.net, nella sezione opinion leader, sondaggio 2011, Davide Paolini. Votate, non votate Antonio La Trippa questa volta, votate Davide Paolini, anche se La Trippa c'entra, e c'entra soprattutto con i referendum elettorali di oggi. Sentiamo qualche telefonata rapida ai nostri ascoltatori. Alfredo da Milano, come la pensa? Prego, Alfredo. Bella la battuta sulla misura del reggiseno, bravissimo. Non riesco a capire ogni tanto dove vivono certe persone che dovrebbero così essere più illuminati di noi. Venendo al dunque, mi rimane ancora una cosa da fare in questo paese, non andare a votare. Ah, ecco, ecco. Cosa ne pensi? Alfredo, e proprio siamo alla fine della disperazione se ci ritiriamo tutti sull'Aventino, eh. Questo è, nel senso che io purtroppo l'ho anche già fatto, poi mi sono pentito perché l'astensione consente solo che abbia maggior peso ancora chi non condivide questo, e sono ancora in meno a decidere. È ovvio che votando da solo, finché l'offerta politica è fatta con questo criterio, non so dove sbattere la testa. Umberto da Udine, come la pensa? Buongiorno innanzitutto, io la penso che la legge è un falso problema, perché se i segretari politici dei partiti non mettono in lista le persone valide che a me interessa votare, praticamente il mio voto sarebbe inutile comunque. Quindi lei dice, non è tanto la lista bloccata, perché anche se effettuano il collegio uninominale, candidato al collegio uninominale, se io non lo scelgo con le primarie le potrebbero soddisfare come criterio di coinvolgimento maggiore. Lo scelgono sempre loro il candidato da mettere in lista, no? Sì, però a me piace Oscar Giannino e voglio votarlo e non lo mettono in lista, non ho risolto nessun problema. Io per esempio, a me piaceva di più l'uninominale, e posso dirle anche l'uninominale, perché io penso che con l'uninominale, per esempio, la scelta preventiva con consultazioni e primarie dei collegi elettorali ha più senso ancora, piuttosto che per liste di collegio ampio. Però questa è la mia particolare sensibilità. Carlo dalla provincia di Como, prego Carlo. Sì, buongiorno a te Giannino. Senta, io vorrei capire da persona ignorante, insomma, perché presentando 1.500.000 firme, e quindi presumo che ce ne siano molte, molte, molte altre, d'accordo, non venga preso in considerazione il fatto che si debba fare un referendum. Ecco, vorrei capire magari in parole più terra a terra il perché in uno Stato democratico, tra virgolette, non possa succedere questo, essendo un paese civile. Allora, è ovvio che la risposta tecnica è, c'è il filtro dell'ammissibilità dei quesiti. Però sentiamo invece del professor Frosini, perché secondo lei, siamo in attesa di conoscere ovviamente il dispositivo della sentenza della Corte, ma perché a suo giudizio era fondata l'inammissibilità dei due quesiti? Ma diciamo che c'erano ottimi argomenti sia a favore dell'ammissibilità sia contro. Forse quello che ha prevalso è il timore della Corte che con l'ammissibilità e quindi con l'abrogazione parziale o totale della legge si potesse creare un vuoto normativo, cioè rendere inoperativo il Parlamento privandolo della legge che consente di rappresentarlo. Cioè il rischio che si è posta la Corte, secondo me, è stato quello che se noi creiamo un buco, un vuoto nella legge, cioè non diamo la possibilità di eleggere il Parlamento, si crea, come è possibile immaginare, un vulnus costituzionale. E quindi per tutelare, io penso, credo, e poi lo leggeremo nelle motivazioni, per tutelare comunque la possibilità di eleggere il Parlamento, la Corte ha escluso che si possano fare dei referendum che eliminino norme diciamo fondamentali per consentire l'elezione del Parlamento. Alfredo da Parma, come la pensa? Sì, buongiorno. Io volevo un attimino rovesciare la prospettiva. Io dico che in realtà sia l'autocandidatura dal basso che si proponga da parte di personaggi che non brillano particolarmente nella vita civile e professionale. Cioè non è tanto una scelta, diciamo così, ottriata che va a pescare qui e lì. Io posso dire, salvo delle eccezioni, ovviamente ce n'è, che insomma quelli che si buttano nella politica non è che abbiano raggiunto risultati normalmente eccelsi nella vita quotidiana, professionale, lavorativa che sia. Prova per esempio quelle interviste un po' giocose che a volte si fanno anche, non so, da Striscia, domande di cultura generale alle quali danno delle risposte imbarazzanti. Però Alfredo, questa è una constatazione de facto, per così dire, cioè la crisi della rappresentanza vive e sta nel fatto che alla rappresentanza si dedicano, e questo capita in politica, ma io l'ho detto più volte, capita anche nell'associazione d'impresa a tutti i livelli in Italia, alla rappresentanza si dedica oramai un po', vero quello che dice lei, chi non ha successo e serietà nella vita professionale, cosa c'è? Però questo ci porta a un degrado sempre maggiore della rappresentanza politica, e io salvo la dignità invece chi anche ha un'idea alta della politica, quindi è questo che va spezzato. La domanda finale che faccio all'onorevole Lusetti è questa: chi accusa la parte centrista e chi vuole tornare a più proporzionale di voler levare il diritto agli italiani a scegliersi chi governava, cosa che nel bene e nel male, con forzature, con i nomi dei candidati premier sulla scheda si è arrivati a fare, ecco, a chi vi fa questa obiezione, voi che risposta date? Volete tornare mani libere, si decide tutto in Parlamento? No, adesso a mani libere completamente no, perché forse l'indicazione del premier ci può anche stare in un modello tedesco corretto, ecco, possiamo fare una cosa del genere, però l'importante per noi è che si torni a scegliere il deputato. Adesso c'è una preferenza per le preferenze da dare, però insomma, voglio dire, alla fine si può anche trovare una forma di collegi uninominali sempre con i proporzionali, il cosiddetto provincellum, anche se andiamo un po' sul tecnico, quindi è difficile, è il modello delle province, è il modello elettorale, del sistema elettorale provinciale, o del Senato, insomma, quindi con un collegio uninominale. Tra l'altro, quando il Senato nella prima Repubblica, che io non voterei via del tutto per la verità, no? Però i senatori in genere avevano dei collegi perché le personalità eminenti, quindi costituzionalisti, sì, personaggi di un certo rilievo, potevano essere collocati al Senato per poter dare un contributo anche. Ed effettivamente capita nella prima Repubblica, questo capitava, bisogna essere oggettivi, sì. Adesso purtroppo non è più così. Infatti, capitava più nella prima Repubblica che nella seconda, a essere sinceri. In questo devo cogliere l'elemento non di nostalgia, ma fattuale di comparazione tra la prima e la seconda di questa chiusura, onorevole Lusetti. Bene, io ringrazio il professor Frosini, onorevole Lusetti e il professor Parisi. Condivido purtroppo il pessimismo di Parisi. Temo che è dal basso, è dalla protesta e dalla disobbedienza organizzata che bisogna ripartire. Continuo a dirvelo. Votate, votate, votate Davide Paolini, www.italiatavola.net. Appuntamento a lunedì.